9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 22 gennaio. Il tema della puntata oggi è uno dei punti da sempre caldi dell'attrito e della possibilità di integrazione, anche per il momento irrisolta, a dire la verità, del sistema produttivo italiano, del sistema industriale, in particolare di una delle aree che traina il nostro sistema delle esportazioni nel mondo e che è simbolo, punto delicato anche del Made in Italy, cioè il tessile, punto delicato perché inevitabilmente la globalizzazione ha comportato meccanismi competitivi in cui la parte media e bassa della catena del valore aggiunto ha visto le grandi, tradizionali, fin dal Medioevo, produzioni italiane spiazzate in maniera progressiva e crescente dalla logica, ripeto, nel segmento medio e basso, dei bassissimi costi di lavoro e magari minori costi di approvvigionamento delle materie prime, e questo ha comportato inevitabilmente dei problemi che alcuni distretti del tessile italiano conoscono bene: Biella, la parte nord della Lombardia, e Prato che il tessile ha visto come terreno di lezione della sua crescita fin dall'Unità d'Italia. Gli insediamenti erano addirittura precedenti. Ricordo a tutti coloro che non fossero abbastanza addentro alla storia di Prato che Prato è una grande città, è la terza città dopo Roma e Firenze del centro Italia, sono oltre 180.000 abitanti, e a Prato negli ultimi 20 anni si è radicato questo fenomeno dell'insediamento crescente di migliaia e migliaia di cinesi, fino al punto tale in cui il 15% delle aziende di Prato sono cinesi, con oltre 4.000 ragioni sociali di aziende e società diversamente riconducibili alla comunità cinese, e di queste quasi l'80% o anzi poco più dell'80% sono tutte nel segmento dell'abbigliamento, del tessile, della produzione, però secondo modalità, e questo è il punto delicato che decide se poi noi siamo capaci di realizzare integrazione, chiedendo però anche che coloro che vengono qui rispettino integralmente le nostre leggi, prodotti però da questa società cinese molto spesso con metodi appunto cinesi, e cioè con oltre ai bassissimi costi, oltre a turni di lavoro elevatissimi, oltre a fenomeni molto estesi di operai e addetti che praticamente dormono e lavorano negli stessi 3 metri quadrati, per così dire, naturalmente senza che nessuno sia iscritto a un solo sindacato, senza il rispetto molto spesso di tutto quell'apparato di norme che invece gravano su tutte le imprese italiane, quelle che naturalmente presidono la sicurezza sui posti di lavoro, quelle che tutelano l'igiene e il rispetto della sicurezza per i prodotti dei clienti e così via. Allora, che cosa succede da anni a Prato? Lo sappiamo, lo abbiamo più volte letto. La notizia da cui partiamo è il blitz antisommerso, l'ennesimo, ma questa volta molto più rilevante che in passato, un'operazione interforze che il 19 di gennaio, martedì, ha visto impegnati oltre 100 uomini delle diverse forze dell'ordine, elicotteri, per accertare le irregolarità proprio nel settore dell'abbigliamento, cioè proprio in uno dei settori in cui tutte le categorie produttive da molto tempo chiedevano, oltre agli amministratori locali, che venisse un segnale anche nazionale da parte delle forze dell'ordine e quindi dai ministri interessati in prima persona. I controlli hanno portato praticamente alla chiusura di quasi tutte le aziende cinesi dove sono avvenute, 30 aziende, fermati 70 immigrati. E che cosa è successo? È successo che il console cinese di Firenze, si chiama Gu Honglin, che già ogni tanto suscita polemiche con le sue prese di posizioni molto ruvide nei confronti di chi chiede che l'integrazione avvenga sulla base del reciproco rispetto, quindi anche innanzitutto rispetto da parte di chi viene in Italia a lavorare, quindi in questo caso dei cinesi a Prato. Ricordo che a novembre scorso, in corso di l'occasione di un convegno, aveva testualmente detto che i controlli contro i cinesi a Prato sono discriminatori, e poi aveva aggiunto che il governo cinese è scontento di quello che sta succedendo a Prato, e in più che sono stati gli italiani 20 anni fa a chiedere ai cinesi di venire a Prato per aiutare il tessile. Ecco, non contento dentro di tutto questo, di fronte al blitz antisommerso, come ha titolato il Sole 24 Ore del 19, il console cinese di Firenze, a Firenze, Guangding, ha detto: mancavano solo i cani, per il resto era come se fossero le SS. Di qui un'esplosione di commenti che naturalmente non hanno risparmiato al console cinese. Toni anche molto dure, ne sono usciti ancora ieri, i terzisti di Prato, il console della Cina, fabbricate falsi, per favore non siete in regola e non potete certo prendervela con le forze dell'ordine, e così via. Segnalo, poiché c'è anche chi ha opinioni diverse, che tra tutti invece la CGIL, che pure in passato aveva anche essa stigmatizzato i toni del console cinese, effettivamente in questa occasione prende un pochino le distanze, mentre invece il ministro dell'interno, che sarà il 26 di gennaio a Prato, quindi anche per questo oggi abbiamo deciso di dedicare la trasmissione, perché c'è una riflessione che, come evidente, non riguarda solo quella città e quella regione, ma è una riflessione nazionale, sono dei punti di attrito più delicati della presenza dei cinesi nel nostro paese. Il ministro dell'interno Maroni ha parlato addirittura all'indomani del blitz di un modello Prato contro le aziende illegali, dicendo che appunto questa operazione congiunta delle forze dell'ordine contro l'immigrazione clandestina, contro le aziende illegali gestite dai cinesi, costituisce, ha detto il ministro dell'interno, un modello di azione concertata di contrasto alla illegalità che merita di essere proposto altrove. E il 26 Maroni si recherà appunto a Prato per andare a trovare il sindaco e in collaborazione con gli enti locali vedere di mettere a punto ulteriormente una strada condivisa per la lotta a tutti quei fenomeni che negli anni in realtà hanno visto la comunità pratese chiedere spesso aiuto. La comunità nazionale, quella politica, assistere con un misto di rassegnazione da una parte e di scommessa dall'altra che fossero proprio i locali a realizzare la migliore possibilità e capacità di integrare e superare tutti i problemi. Se non che, conclusione del mio pistolotto iniziale, a differenza di quello che capiti con altre comunità di migrazione importanti nel nostro paese, come è noto, l'immigrazione cinese ha delle caratteristiche etnico-culturali, politico-sociali molto proprie. Si tratta di innesto di radicamenti che restano chiusi, che hanno un filone di riferimento con le regioni, i luoghi, le città, spesso anche aree molto piccole della Cina di provenienza che restano fortissimi in Cina, tanto nel mainland di provenienza quanto qui il filone di appartenenza clanico è fortissimo, e questo consente un controllo capillare sia dei flussi immigratori sia dei classici fenomeni per cui sembra che non muoia mai nessuno, nessuno ha un incidente sul lavoro, non succede mai niente nelle comunità di migliaia e migliaia di cinesi. Consente poi naturalmente tutta una serie di fenomeni collegati a un tipo di comunità radicata in termini così chiusi, come riciclaggio di denaro, come contraffazioni di massa, eccetera eccetera eccetera. Quindi la comunità cinese, che nessuno qui intende però generalizzare in giudizi negativi, ha delle caratteristiche tali che da una parte rispetto ad altre rispetta meglio le leggi italiane, perché l'atteggiamento generale è non volere guai, dall'altro però è molto chiusa a chi gli chiede poi il rispetto delle nostre norme. Fine della mia introduzione, presentiamo gli ospiti che sicuramente ci dicono come a Prato è stato visto il blitz e come si vede lo sviluppo di questa situazione dopo tanti anni. Innanzitutto abbiamo Riccardo Marini, il presidente dell'Unione Industriale Pratese. Buongiorno presidente. E poi Silvia Pieraccini, che è con la collaboratrice del Sole 24 Ore, che due anni fa ha scritto quello che consideriamo il miglior libro fino a questo momento sui problemi di cui ci stiamo occupando, edito proprio dal Sole 24 Ore, L'assedio cinese. Buongiorno Silvia. Buongiorno, ciao. Allora, presidente dell'Unione Industriale, dal vostro punto di vista il blitz a che cosa prelude e che cosa promette, per così dire? Ma prima di tutto direi che questi blitz ormai vanno avanti da un po' di tempo e stanno man mano affinandosi come tipo di obiettivo. anche perché quelle fatte fino adesso, quasi tutte sulle persone, sui clandestini, non hanno sentito grossissimi effetti, mentre quando si va a toccare un po' più da vicino quello che è la forza lavoro, allora si riesce forse a ottenere dei risultati migliori. Questi blitz io sinceramente li trovo piuttosto importanti se sono fatti in maniera sistematica. Non Presidente, tanto. Posso chiederle solo se toglie il viva voce, perché credo che questo ci faccia un po' di eco. È già fatto. Ecco, grazie, molto meno. Prego. No, dicevo appunto, questi blitz se vengono fatti in maniera sistematica, che vuol dire non lasciare fare un blitz adesso e lasciare che il tempo passi perché le cose si ritornino al modo originario, hanno sicuramente un grossissimo effetto, e è quello che sta succedendo, cioè l'aumento dell'intensità di questi blitz pian piano sta portando l'attività della confezione cinese a un punto di domanda, credo, ecco, che se devono continuare a operare nelle condizioni in cui stanno operando adesso, probabilmente non c'è più la possibilità di essere tollerati. Il console quando ha detto nei mesi finali dello scorso anno una moratoria ai controlli, sottintendeva che la vostra è una specie di lamentela di chi non è in grado di reggere la concorrenza, perché questo più o meno è il sottinteso, al di là della minaccia di velate pressioni politiche direttamente sul governo nazionale da parte delle autorità di Pechino. Ma questo console, dal vostro punto di vista, che perché prende toni di questo tipo? Ma sai, i toni di questo tipo da parte del console mi sembra che siano in difesa di quella che è la sua comunità e la comunità di cui lui è rappresentante. Però secondo me non sono toni che vanno usati, anche perché, come ha detto giustamente lei nell'introduzione, quando si va in un paese diverso dal nostro si rispettano gli usi e consumi e anche la lingua del posto dove si va, ecco. Voler importare proprie regole e propri modi di lavoro non credo sia questa la strada giusta da fare per un'eventuale integrazione che io mi auspico, almeno sotto il profilo economico, possa essere fatta in qualche modo. Però le parole del console lasciano abbastanza perplessi, ecco. Io sinceramente quando lei ha ricordato prima in novembre della tavola che c'è stata, io ero presente a quella tavola e sono rimasto piuttosto scioccato dalle parole del console, che anziché cercare un'integrazione cerca di puntare il dito, cioè come se noi si fosse colpevoli e loro sono quelli che subiscono le conseguenze, ecco. Senta, Presidente, se le dovessi chiedere, in questi ultimi anni, quando diciamo le prime generazioni di coloro che erano arrivate a Prato anni prima hanno iniziato anche a rilevare capannoni di imprese italiane in difficoltà, ad assumere le forme più pubbliche e più in regola della propria attività, della comunità cinese nel settore tessile, tornando anche a reinvestire Cina e facendolo in maniera aperta. Ecco, con alcuni di questi mi pareva di aver letto che era stato possibile iniziare a intrattenere rapporti molto più distesi, molto più ordinari. Ma quanti di questi imprenditori cinesi che non rappresentano, per così dire, un problema ai vostri occhi, quanto rappresentano della loro comunità? Se dovesse fare intendere a chi non conosce la realtà pratese, cioè non rappresenta un problema 1 su 100, 10 su 100, il 25% delle imprese cinesi di Prato ai vostri occhi, quante? Ma no, direi che per quanto riguarda una parte appunto dell'imprenditoria pratese sicuramente è tutto un problema, non c'è un qualcosa che non lo rappresenta, anche perché le ripeto, anzi le dico che noi come associazione industriale abbiamo solamente un socio dal 2004 e doveva essere una testa di ponte per far venire altri suoi connazionali all'interno della nostra associazione, è rimasto l'unico per adesso associato, per cui il problema è un problema generale. Diciamo che i cinesi di Prato non sono un problema per quanto riguarda il core business dell'attività di Prato, cioè non sono nel tessile, sono principalmente nell'abbigliamento, nella confezione e, sì, e nella maglieria, ecco. In questi due settori hanno fatto un pochino man bassa, relegando tutti quelli che lo facevano da parte nostra e che, come le ripeto, non era tantissima, in posizione di secondo piano per quelli che sono sopravvissuti. Certamente per quanto riguarda l'attività principale, che è il tessile, ancora non ci sono, anche se qualche piccolo segnale si sta avendo, si stanno comunque avvicinando a alcune delle lavorazioni di nobilitazione per quanto riguarda l'attività tessile, ecco. Per cui se questo fenomeno fosse stato probabilmente gestito in maniera diversa sin dall'inizio, adesso non si sarebbe qui a parlare di un fenomeno prato a livello mondiale, direi, di una mancata integrazione e di un doppio binario di attività produttiva, cioè un distretto che opera secondo le sue regole e un altro distretto che è quello che ha sempre operato, che da sempre diciamo fiora all'occhiello del Made in Italy, che opera in maniera totalmente diversa. Oh, Presidente, un'altra domanda. Dopo anni in cui metodi diciamo non pienamente rispettosi né delle regole della concorrenza fair né tantomeno delle leggi sul lavoro, sono in grado poi di estendersi anche nella comunità delle imprese italiane? È ovvio che, siccome sono tutti metodi volti all'abbattimento massimale del costo, potrei anche capire a un certo punto che qualcuno dicesse, io sono costretto però più o meno a tentare di fare la stessa cosa, ma è un fenomeno che è avvenuto a Prato, cioè ha prodotto per meccanismo di estensione emulativa illegalità anche nella comunità imprenditoriale non cinese, secondo lei, oppure no? Perché la CGIL, questo è quello che fa un po' capire quando dice, invece di prenderla col console, facciamo le ispezioni in quelle cinesi e in quelle italiane. Adesso ognuno fa il suo mestiere, però ho visto la dichiarazione del segretario della CGIL che dice così. Ma ora, no, sinceramente io la penso un po' in maniera diversa. E i discorsi di questi giorni, tra l'altro la lettera che io ho scritto al prefetto dandole benvenuto e spiegandone un pochino qual è la situazione di Prato, è proprio per un sistema preventivo per prevenire eventuali derive di quelle che lei stava dicendo prima, anche perché in un momento di crisi del genere è molto facile, visto che la comunità cinese, operando secondo le proprie regole, che sono non regole, riesce in qualche modo a star sempre bene, a far sempre bene, mentre quella italiana, quella francese in particolare, operando su un altro piano, subisce gli effetti della crisi e i cinesi stanno sempre meglio e i francesi sempre peggio, per cui in maniera preventiva per evitare eventuali derive del genere, eventuali emulazioni di un sistema che non è quello che noi certamente vogliamo che sia, è bene mettere le mani avanti. Ecco, non ci sono, che io sappia, ancora delle emulazioni effettive, delle emulazioni fatte, però c'è un grossissimo pericolo che a breve ciò possa succedere. Oh, ci ha raggiunto, la ringrazio Presidente, io spero che lei possa seguirci nel corso della trasmissione e quindi può rimanere collegato, anche se non so se altri impegni la chiamino. Ci ha raggiunto il sindaco di Prato, Roberto Cenni. Buongiorno signor sindaco. Buongiorno. Roberto Cenni è un sindaco che guida una maggioranza di centrodestra, il sindaco di Prato, è un imprenditore anche egli, quindi conosce direttamente sul campo le ragioni di cui si sta parlando. L'esperienza della sua giunta e sua personale in questi anni di fronte a una comunità di imprenditori, l'abbiamo sentito da parte del Presidente, che lei conosce benissimo, che è stata quella di accumulare richieste di intervento, esposti, segnalazioni, ha visto poi nella sua giunta il tentativo di dare una risposta con i mezzi a vostra disposizione. Naturalmente non potete essere voi quelli che dispongono i controlli sistematici da parte di forze dell'ordine che non rispondono al comune, però questo da una parte ha rassicurato la città, dall'altra, come dire, vedo quando ci sono occasioni come il dibattito pubblico di novembre all'indomani del blitz di tre giorni fa, la reazione della CGIL, sembra poi che politicizzi la questione invece che rappresentare una risposta di una comunità unita di fronte a un problema che dopo oramai tanti anni è arrivato a una soglia di... Allora le chiedo, nella sua esperienza, non le chiedo di fare polemica, ma nella sua esperienza, come mai la politica poi su questo tende a dividersi invece che a capire che lì c'è un modello che o si riesce a realizzare davvero, io non voglio parlare del modello Maroni, quello delle forze dell'ordine, c'è anche quello, ma io dico o si realizza a Prato un modello di integrazione tra una comunità tanto importante e un distretto così importante per voi produttivo, oppure non si realizza nel resto d'Italia, questa è la mia sensazione. Allora su questo negli anni lei pensa che la politica abbia capito che bisogna stare uniti oppure no? Io credo che il problema vada preso nella sua concretezza. Io quello che vedo non è che ci si possa sempre tanto a filosofeggiare intorno a questo argomento, o partire da principi di carattere umano. Certo che è un aspetto estremamente particolare, in parte viene dal cuore, in parte viene dalla razionalità. Di fatto quello che è il problema più grave è che una massa di immigrazione come Prato avuta, che è 4 volte quella che è la media nazionale, si immagina il peso e i disagi dei cittadini hanno subito da questo movimento. E è lì che bisogna cercare di incidere. Perché se si vuole realizzare una buona integrazione, non bisogna che questo fenomeno passi e venga, come dire, pagato in termini di servizi, di aiuti, di fastidi, di disagi da parte dei cittadini. E in questo senso credo che le amministrazioni, le istituzioni dovrebbero soprattutto tener conto di queste problematiche. Ho degli esempi abbastanza semplici. Se uno dopo tanti sforzi nella vita gli ha comprato un appartamento in un condominio e sopra ci si ritrova o perché l'ha preso in affitto o perché l'ha acquistato un cinese, il quale cinese ha il suo regolare permesso di soggiorno. E dopo all'interno di questo ci abitano 15, 20, 25 persone che fanno turni la notte, cucinano tutta la notte, non prendono senza del gas ma usano le bombole, con il pericolo poi che ne può conseguire di una cattiva gestione anche delle bombole. Se durante il giorno è un via vai e la notte idem e non può dormire, se all'interno di questo continuamente non ci sono le condizioni igieniche per andare avanti. E pensa che noi abbiamo accumulato qualcosa come 240 esposti da parte dei cittadini per lamentele di questo genere. Se all'interno di questa realtà poi i condomini che abitano vicino sono vicini a stanzoni presi in affitto acquistati da cinesi che viaggiano 24 ore al giorno con tutto il vetro oscurato, non si sa quello che fanno. E poi nella realtà quando le vai a controllare ci trovi carne a essiccare, topi, rifiuti anche pericolosi come Ethernet eccetera, come nell'ultimo blitz che è stato fatto. Quando qualcuno purtroppo ha bisogno del pronto soccorso e deve aspettare 6-7 ore perché davanti a lui c'è oltre il 50% cittadini immigrati che purtroppo come ultimo analisi o come unica via non hanno medici di famiglia, non c'è un'organizzazione, un filtro diverso forse degli altri, ma deve aspettare per poter risolvere il suo problema 6-7 ore. Se in un momento di bisogno come è la città di Prato, per cui ci sono tanti in cassa integrazione o in mobilità o addirittura disoccupati, e alla scuola dell'obbligo vengano a chiedere il contributo per i libri e di fronte a loro vedano una lista infinita di nomi, tanto che quando arrivano o quando non possono avere le reti e sono più fondi per dare. Aspetti, allora signor sindaco, abbiamo sentito l'elenco molto lungo e complesso di tutti i settori della vita cittadina su cui insistono i problemi di questa comunità. Stiamo parlando dei problemi della comunità e delle attività economiche condotte dalla comunità cinese a Prato, a 3 giorni dal blitz, dalle polemiche che ha suscitato di fronte all'ennesima conferma che moltissime aziende cinesi impiegano gente e producono non in regola con le regole del nostro paese, però le polemiche ci sono ancora. Io ricordo a tutti che su una città di 180.000 più o meno abitanti, si stima che fino a 50.000 siano i cinesi che insistono nell'area, di cui solo però meno di 20.000 sono in regola e 4.100 le imprese. Abbiamo sentito una poi iscritta a Confesso, uno dal 2004, nessun altro. Iniziamo con alcuni di voi che hanno chiamato, iniziamo con Tiziano da Prato. Prego Tiziano, ci dica. Sì, buongiorno. Senta, io sono abbastanza integrato nella comunità cinese. Purtroppo il problema viene a monte, no? Prima li abbiamo fatti entrare, li abbiamo fatto fare quello che si voleva, li abbiamo affittato capannoni, venduto a prezzi 100 volte che valevano. Hanno comprato loro via fissata, hanno comprato perché non la voleva più nessuno, ma gliel'abbiamo dato noi. Ora si vogliono andare via, invece si dovrebbero regolarizzare. Allora regolarizzando non si punisce, per regolarizzare c'è da fare una cosa ben specifica. Si va nelle fabbriche, chiudete o si regolarizza o si chiude, così, ma no le varie e poi buttati fuori, come fanno ora, no? qui si punisce e basta, non si regolarizza l'immigrazione così. Ci vuole il pugno fermo, però il pugno ci vuole così. Grazie, sì. Grazie Tiziano. Lei dice state attenti perché questi blitz non sono in grado di ottenere il vero cosa, anche perché poi siamo stati noi a tenere gli occhi chiusi, se ho capito bene. Yang da Treviso, Yang, prego, dica. Sì, buongiorno. Cioè, l'ascoltatore che mi ha preceduto ha quasi detto la mia versione, perché il medico dopo la morte, perché in 20 anni nessuno ha visto quello che succedeva a Prato. Io ci sono stato, ma in un paese civile certe cose non devono succedere. E la stessa cosa sta succedendo purtroppo anche con i negozi degli immigrati, perché vedi una via, ci sono 50 negozi, nessuno controlla e diventa un ghetto. Quello non favorisce l'integrazione. Quello è proprio, cioè, e poi lì sono stato, ho visto anche, sono i negozianti italiani che fanno la fila proprio per prendere proprio la merce. E poi i capannoni, di chi sono? Chi li ha venduti i capannoni? Cioè, prima bisogna anche fare un controllo di routine e mettere come si dice le carte in regola per tutti. Grazie Engle, posso chiedere da che paese proviene, da quanti anni in Italia? Io sono originario del Senegal, sono 20 anni che sono in Italia. Grazie moltissime. Massimo da Modena, prego, ci dica anche la sua. Buongiorno Giannino, io sono un piccolo operatore tessile della provincia di Modena. Niente, lo scandalo e la denuncia che devo fare è quello che sotto gli occhi di tutti, alla luce del sole, i cinesi a Prato fanno tutto a nero, ma non so se sono accordi bilaterali. La Guardia di Finanza mi risulta che per 3 anni non può intervenire dentro una qualsiasi società cinese. E questo è lo aspetti, scandalo. Aspetti. Lei ci dice che ci sono accordi riservati? No, io penso, ho sentito dire che insomma la Guardia di Finanza non può entrare in una società cinese nei 3 anni di apertura. Perciò io ho pensato che siano accordi bilaterali, perché non è possibile, fanno tutto a nero alla luce del sole. Non credo che gli accordi bilaterali, a meno che si tratti di qualche cosa di assolutamente riservato nei rapporti bilaterali con questo paese, che non è esattamente quello che conta meno nel mondo, visto che la Cina oggi è il paese che traina l'economia mondiale, a meno di, lo chiederemo a qualche rappresentante del comunque governo. Comunque lo sanno tutti che fanno tutto a nero. Ma che fanno tutto a nero? Sì, ma che la Guardia di Finanza non ci possa entrare per 3 anni, questo io rimarrei stupito. Però se lei dice... A me piacerebbe che lei ci andasse a fondo. Infatti chiederemo, e la ringrazio molto di avercelo segnalato. Ancora Gianni da Roma, prego Gianni. Buongiorno per Giannino. Dica. Dunque, c'è un unico filo conduttore. Perché il console cinese a Prato strilla? Perché io che vivo a Roma il console cinese strillava perché a Piazza Vittorio era intervenuta la polizia? Perché secondo lei il governo egiziano strilla che diceva che a Rosarno noi mangiamo le persone? Perché il presidente Lula diceva che in Italia non c'è la legge e si tiene Cesare Battisti? Motivo è molto banale. Noi siamo un paese culturalmente spaccato e tutti vengono a tingere il pane a strillare in Italia, perché abbiamo due visioni dell'Italia diverse. Fino all'altro ieri c'era la CGIL a Prato. Tutti erano comunisti, tutti erano terzomondisti, tutti si volevano bene e hanno permesso questa immigrazione massiccia e incontrollata, dove hanno creato un territorio extracomunitario, dove i cinesi vendono con il timbro Made in Italy prodotti che tutti gli europei vengono a comprare e non c'è una manodopera italiana. 20 anni di inerzia, sciatteria, pressappochismo e noi abbiamo la sola cultura dell'emergenza. Siamo tecnicamente capaci. Ma lei si crede che in Francia permettono queste cose? No, nella mia esperienza direi che è molto più improbabile, per così dire, per quanto anche la Francia, come è noto, conosca fenomeni di illegalità tollerata per anni da parte di comunità di ex paesi dell'impero francesi che, insediate e invitate nelle periferie francesi, poi non avevano avuto una risposta da parte delle autorità pubbliche francesi. Anche in quel caso ci sono stati fenomeni tollerati per anni, tollerati e seguiti con un'attenzione anche lì unofficial, non dichiarata, da parte delle forze dell'ordine. C'è una vasta letteratura in Francia esattamente su questo fenomeno della illegalità consentita in comunità rispetto alle quali la Francia si sentiva in colpa. Però l'opinione di questo ascoltatore mi sembra che metta sul tavolo una questione di fondo. Quando un paese non ha una cultura condivisa della propria cittadinanza e della maniera in cui gli stessi italiani devono o non devono rispettare le regole, inevitabilmente si consegna a i successi di integrazione produttiva, etnica e civile e poi si consegna a polemiche che dall'estero diventano esplosive quando si tenta solo con l'emergenza di fare ciò che non si riesce a fare con i controlli ordinari e che rispaccano anche la politica italiana. Io mi ritrovo molto in questa lettura, ma chiedo a Silvia Pieraccini, che abbiamo tenuta in ascolto fino a questo momento senza approfittare di tutto quello che lei sa, perché lei è stata spettatrice e una delle migliori giornaliste secondo me italiane nel documentare come questo fenomeno cresceva e si diversificava. Allora ti butto lì alcune domande. È vero o è falso che, per esempio, i cinesi lì si radicano e comprano materie prime, confezioni, eccetera, soprattutto dalla Cina, sanando un problema, estendendo una cosa in cui gli imprenditori italiani di prima presenti nel settore avevano tentato ma non c'erano riusciti, da una parte, e dall'altra però è sotto gli occhi di tutti che poi, mettendo Made in Italy sopra, alimentino cose che vanno in tutta Europa, e questa cosa certo non la scopriamo oggi. Sono vere tutte e due queste cose? Nel senso che fino a oggi gli imprenditori cinesi di Prato, che operano essenzialmente nell'abbigliamento, per confezionare questi capi, quindi questi abiti, magliette, fuseau, cappotti, hanno utilizzato prevalentemente tessuti importati dalla Cina. Quindi non hanno utilizzato i tessuti fatti a Prato storicamente, ma si sono rivolti, naturalmente per un problema di prezzo, a un mercato in grado di assicurarglieli a prezzi inferiori. Quindi hanno importato tessuti dalla Cina, li hanno cuciti e legittimamente, vorrei sottolinearlo, hanno apposto l'etichetta Made in Italy, perché un capo fatto, confezionato sul territorio italiano può fregiarsi dell'etichetta Made in Italy. Poi possiamo stare a discutere giusto o non è giusto, però che possano utilizzare il Made in Italy e che il Made in Italy, l'etichetta, sia stato sicuramente uno dei grandi strumenti che è servito loro per penetrare sui mercati di tutta Europa e anche oltre, è certamente vero. Quindi questo hanno fatto lo hanno fatto, ecco, vorrei dire e aggiungere, oltre a tutto quello che avete detto finora, quindi utilizzando lavoro nero, sfruttando appunto lavoratori e non rispettando tutte le regole sull'attività di impresa, lo hanno fatto anche e soprattutto grazie a questa grandissima presenza di mani clandestine. Sono i clandestini 20, 30, 40 mila, nessuno potrà dirlo con esattezza, ma sono i clandestini disposti a lavorare senza nessuna garanzia, più e più ore al giorno, che assicurano la manodopera necessaria a confezionare in tempi rapidissimi 1 milione di abiti ogni giorno. 1 milione di abiti ogni giorno partono da Prato, diretti ormai ai mercati appunto di tutta Europa. È un segmento assolutamente basso, è un abbigliamento di bassa qualità, che però soprattutto per mercati emergenti in cui il Made in Italy è enormemente apprezzato, hanno avuto davvero grandi canali di crescita. E quindi consente anche molto probabilmente, grazie a questo sfruttamento del Made in Italy, sia pure nella filiera bassa, consente probabilmente anche buoni margini. Senti, margini grandissimi, c'è un nucleo, naturalmente non i laboratori in cui i clandestini cuciono, ma i, diciamo così, committenti, cioè le aziende cinesi finali, quelle che vendono direttamente sul mercato e che sono 500-600 al massimo, che sono in grado davvero di accumulare una ricchezza impensabile, incredibile oggi per qualunque impresa italiana. E io ricordo a chi è in ascolto che noi stiamo parlando, queste 4.000 rotte società riconducibili ai cinesi di Prato, stiamo parlando di un giro d'affari che ormai ha superato i 2 miliardi di euro. Praticamente è un giro d'affari che in pochi anni è complice la crisi del tessile, quindi dell'altro distretto, diciamo, tradizionale che insiste sul territorio, è andato ad equipararsi al giro d'affari del distretto tessile. Quindi noi abbiamo da una parte un distretto tessile praticamente dimezzato nell'ultimo decennio, che è passato da 5 miliardi di fatturato ai 2,5 attuali, e dall'altra un distretto cinese dell'abbigliamento in grandissima espansione, che ormai ha superato i 2 miliardi di giro d'affari. Naturalmente questa è una stima che io ho fatto nel mio libro, stimando anche che più di un miliardo di questo giro d'affari sia prodotto a nero. In modo, quindi siamo sopra il 50%, sopra perché il 50% è nascosto. Assolutamente. E un'altra cifra delle tantissime che in questo libro Sio Cinese di Silvia Piracini vi invito a leggere, è che se andiamo a vedere il flusso ufficiale delle rimesse di questa comunità rispetto alla stima delle risorse liquide della comunità, oltre i 2/3 dei soldi semplicemente spariscono, cioè non si riesce a vederli certificati e tracciati in alcun circuito finanziario. Eccoci tornati in studio. Il problema di Prato, della comunità cinese e dei 20 anni in cui siamo arrivati a oltre 4.000 imprese che ormai hanno equiparato, come avete sentito, il settore del tessile tradizionale, che è in crisi. Questo è un abbigliamento di bassa qualità, vastissimi fenomeni di clandestinità, sfruttamento della manodopera, lo Stato non riesce a metterci becco, arriva con l'emergenza, fa i blitz, scoppiano le polemiche. Una domanda secca per il sindaco, una domanda secca per il presidente Marini dell'Unione Industriale Pratese, e poi una domanda, perché andremo anche a Como dal direttore della Cinea di Como per chiedergli se ci sono problemi analoghi. Allora, per il sindaco, l'ascoltatore che ha posto il problema su prima c'era una cultura di un certo colore e che ha portato a dire vogliamoci bene e che ci ha fatto chiudere gli occhi, dal suo punto di vista, glielo chiedo prima come sindaco che come esponente politico, quel tipo di lettura è corretta, è vera, oppure bisogna superarla? Ma perlomeno sulla percezione, su quanto diciamo è percepito dal cittadino, sicuramente sì, ritenuta in parte responsabile del fatto che il fenomeno è stato sottovalutato nel suo insieme, e al momento in cui si è sviluppato tutti quei disagi che parlavo prima è di una dimensione talmente ampia che da una certa parte è avvenuto la consapevolezza della difficoltà a risolverlo. E dall'altra comunque la voglia di cercare di fare qualcosa per risolvere tutto il fenomeno. Volevo fare alcune precisazioni, perché sennò alla fine, certo, la realtà specifica delle domande anche i cittadini hanno fatto, no, assolutamente non c'è nessun accordo per il quale la finanza possa andare a fare le proprie verifiche, e le sta facendo. Tra le altre cose è stato costituito il tavolo per la sicurezza per Prato, dove ci sono tutte le interforze, e questo genere di controlli vengano fatti continuamente e costantemente. Ce ne sono alcuni che prendono aspetti così eclatanti per il numero enorme di aziende, fra l'altro era tutto una strada e anche molto ampia come fatto di verifica, per cui ha dato maggior rilievo. Ma per chi in qualche maniera gravita su Prato sa perfettamente che questi controlli sono numerosissimi. Si parla solamente nell'ultima parte dei 6 mesi da quando sono diventato sindaco, 5 mesi e qualche cosa, che siano oltre 200 i controlli effettuati, che il tavolo si è posto proprio nel suo rinnovo, ora martedì 26 verrà giù Maroni per la sigla del nuovo patto, di raddoppiare questi controlli. Per cui è chiaro che è una dei tanti strumenti a disposizione per cercare di ripristinare la presenza dello Stato sul territorio. Grazie signor sindaco e buon lavoro. Al presidente Marini, del presidente dell'Unione Industriale Pratese, ho l'obbligo di dire una cosa. Io sono stato sommerso qua di sms di colleghi imprenditori di tutta Italia, di artigiani, commercianti eccetera, che lamentano il fatto che la Guardia di Finanza li tartassa perennemente, e naturalmente dice: ma se tutto così come dite, ma possibile che la Guardia di Finanza non li ha fatti a pezzi con le verifiche in tutti questi anni? È una domanda rispetto alla quale, siccome sappiamo che poi problemi di analoga concentrazione cinese sono ormai nel Vesuviano, iniziano ad esserci in Lombardia e così via, le chiedo: i suoi iscritti hanno la stessa frequenza di controlli fiscali di queste migliaia di società cinesi? Ma sicuramente ultimamente forse no, però è molto più facile fare delle verifiche a delle imprese italiane dove quando si parla la stessa lingua ci si capisce molto meglio che non andare da delle imprese cinesi, prima di tutto che hanno... Questo però mi verrebbe da dire che conviene allora assumere contabili e responsabili amministrativi e fiscali cinesi anche alle imprese italiane, se effetto di avere una tutela. Potrebbe essere una soluzione, no, a parte gli scherzi direi che quando si parla di la maggior parte delle imprese, almeno quelle che non sono società di capitali ma società di persone che hanno una vita media molto bassa, non riescono a non entrare nel giro dei controlli fiscali, perché prima di entrare nel giro dei controlli fiscali chiudono l'attività e ne aprono un'altra, per cui sono abbastanza difficili. Però mi sembra che ultimamente la Guardia di Finanza ha affinato moltissimo quelle che sono le sue performance e riesce ad essere più incisiva. Certamente qui va ripristinato, perché e poi no, con lo sforzo da parte di tutti, ognuno per la propria parte di competenza. Per quanto mi riguarda, io sotto diciamo due punti fermi che sono legalità e rispetto delle regole, noi siamo disponibilissimi ad aprire le porte a qualsiasi tipo di impresa, che sia un'impresa etica o un'impresa buona, perché Confindustria non fa una questione di titolare dell'impresa stessa, di questioni somatiche o razziali, fa una questione solamente di imprese buone e imprese cattive. Se ognuno di noi fa la propria parte, si riuscirà sicuramente a fare qualcosa di più rispetto a quello che è stato fatto fino adesso, cioè un'integrazione quantomeno economica va trovata, altrimenti ho l'impressione che comincia a vacillare anche quelle che sono le possibilità di vivere sociale con certi tipi di attività, quando nello stesso territorio ci sono due giurisdizioni diverse. Grazie anche al presidente Marini e buon lavoro anche a lui per in vista del tavolo che si riunisce il 26 col ministro Maroni. Una ultima domanda a Silvia Piracini: c'è un fenomeno che sempre fa parte di un'agenda aurea sulle comunità cinesi ed è questo dell'elevatissimo turnover delle società cinesi, che cioè 4, 5, 6 volte superiore a quello italiano. Ma non è una leggenda. No, ma lo so che non è leggenda, ma sai, è collegata alla leggenda poi del fatto che i cinesi non muoiono mai perché tutto viene fatto sparire. È abbastanza diversa, perché qui sono proprio, è uno studio della Camera di Commercio di Prato che ci dice che la vita media delle aziende cinesi a Prato è di 18 mesi. Dopodiché l'azienda solitamente viene chiusa e viene riaperta con un'altra ragione. Io te l'ho chiesto in realtà, perché questo è un altro, posso dire a tutti i topolini in ascolto antifisco, che naturalmente mi considerano un pericoloso avversore, perché io, mi fa molto piacere il fatto che quando facciamo le puntate sull'Italia gli ascoltatori insorgono dicendo che io sono per mancare il rispetto alla legge. Quando parliamo poi di cose come oggi si capisce che c'è chi non lo rispetta per niente, e noi per anni abbiamo chiuso gli occhi. Allora, questa modalità dell'elevato turnover è una classica strategia per impedire a chiunque di andare a trovare carte per controllare. Non so se è evidente, Silvio, o mi sbaglio. Anche perché, diciamo, con una vita dell'azienda così bassa, naturalmente l'azienda fa appena in tempo a presentare una dichiarazione dei redditi, e quando si presenta qualcuno per controllarla già non la trova più. Perché la Cina è una civiltà millenaria, ma anche per questo, cari ascoltatori, oppure c'è, in alcuni casi viene irrogata la sanzione ma poi non è possibile riscuotere perché l'azienda non esiste più, a differenza del povero Giannino che invece tac c'ha sempre la finanza, e la finanza mi è arrivato adesso l'ultimo accertamento anche l'altro ieri, però il mio commercialista dice che in questo caso hanno sbagliato loro, vedremo. E poi l'altra cosa che vorrei aggiungere, che forse è stata anche in qualche modo anticipata, è che per chi produce tutto a nero paradossalmente è più facile evadere rispetto a chi fa a nero una piccola parte del proprio business, perché Silvia, non farmi chiudere la trasmissione col Padre Nostro che chiede di non indurci in tentazione. Però perché... in un'azienda, in un pronto moda, così si chiamano cinesi, in cui la stoffa arriva a nero e non si fa stock di magazzino, viene mandata immediatamente a cucire in laboratori esterni senza nessun tipo di documentazione. Rientra e viene venduta immediatamente nell'arco di 24 ore. Quando uno si presenta per controllare, temo che lo Stato italiano un po' anche questo si meriti. Questa è la mia opinione secca e come sempre abrasiva. Io adesso mi devo scusare brutalmente perché avevo chiamato Alberto Begna, che è il direttore della CNA di Como, perché in Lombardia, diciamo, esistono tanti tentativi di integrazione meno conflittuale, e allora gli devo chiedere, come direttore della CNA di Como, la vostra esperienza con la comunità cinese, l'imprenditoria cinese locale, di che tipo è, come questa, diversa, eccetera. Lo so, darti l'ultimo minuto di trasmissione è indegno, mi scuso con Alberto Berna, però dici. No, non importa, tanta trasmissione è stata interessante comunque. In realtà il fenomeno è in parte simile come nazionalità, ma diverso come insediamento, nel senso che la provincia di Como, che ha diversi distretti, il fenomeno più sentito dei cinesi è nel distretto dell'arredamento, dell'arredamento tessile, dei divani, dove da noi il fenomeno è emerso in maniera strana, nel senso che sono cinesi che risiedono a Milano, che confinano quindi dal punto di vista della residenza con la provincia di Como, in pullman vengono di notte e di mattina in laboratori lasciati purtroppo vuoti dagli artigiani della Brianza, e lì a tende chiuse confezionano divani e imbottiture e comunque... Anche lì mi pare con problemi di mancato rispetto abbastanza di massa delle normative, o no? Totale non rispetto delle normative, nel senso che noi 2 anni fa abbiamo sollecitato, e poi rispetto al lavoro con cui collaboriamo, la Camera di Commercio ha fatto operazioni... Risultato? Il fenomeno si è cresciuto, diminuito? Il risultato del fenomeno è che hanno una grande mobilità, per cui si chiudono da una parte e si aprono a 2 chilometri, no? Perché da noi 18 mesi è già una durata lunga, è l'anno, la vita media. Alberto, io ti ringrazio e devo dire a chi è in ascolto che per sopravvivere allo Stato bisogna fare come Muhammad Ali sul ring, usare le gambe, usare la testa e ogni tanto anche qualche colpo per intontirlo. Scusate, non crediate che sto difendendo l'illegalità, però c'è da riflettere sul perché loro riescano in ciò che a noi invece tocca. Sanzioni. Chiuso della trasmissione di oggi, l'appuntamento è a lunedì, grazie in regia a Paolo Corleoni e naturalmente al mio straordinario braccio sinistro, a destra sono Simon Tratesta, Alessandro Marcutulli, la linea al Generale Radio, appuntamento a lunedì.